Arresto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, Arresto Radio Convento, versione domenicale con un'altra ospite fantastica. E due, siamo a due, Carlone, due, no? E siamo a due. Ci stancano. Sì. Io posso arrivare massimo una terza, poi già la seconda faccio fatica. Poi sarà l'età, Carlone? No, perché la seconda intervista è una di peso, una persona molto importante. Che, insomma, anche lei è una grandissima abitué della domenica. Sì, sì, lei entra col telepass, infatti si alza la sbarra da sola. Questo potere è eccezionale. Trovami adesso un locale dove tu entri col telepass. Esatto. Ma trovami una cliente che riesce in questo modo, così solo con la presenza, a far alzare. Sì, non solo. L'indice di ascolto. E non solo, è l'unica cliente che ha l'amica che tutte le domeniche bisogna far spostare la macchina. Ah, è sempre la sua. Mini Cooper la solita. Comunque, non ancora che facciamo? La presentiamo? La presentiamo? Ti presenti da sola? Sì, ciao, mi chiamo Consuelo. Sì. Vengo da Brescia e vengo tutte le domeniche in questo locale. Mi piace tantissimo, bella gente, bella musica. E soprattutto gente calorosa, amichevole e molto simpatica. Sì, c'è tolto il lavoro. Infatti, cioè, praticamente se l'è scritta, se l'è preparata. No, perché non ho preparato nulla. Ma ha fatto anche la voce sexy, sì, impostata. Sì. È la mia voce, ho sempre questa voce. Ah, tutti i giorni, cioè, quindi anche il lunedì mattino tu hai questa voce. Fammi vedere la mano. Ah, qui scritto tutto copione. No, sì. Non hai è visto? Vero. Ha copiato. L'abbiamo beccata, sì, l'abbiamo beccata. È rimasta, scusa, che scuola hai fatto? Come la tua? Come le mie, per cui. Come la tua? E che scuola è? È una scuola. In Puglia? No, vi sto facendo la PR, vi faccio pubblicità, sì, a tutte le persone. Dai. Portato tanta gente, sono la PR. La PR. Venite col Mini Cooper sempre. Sì, a volte sì, a volte no. Senti, dipende. Io non ti ho mai chiesto una canzone tua preferita, non ce l'hai una tua canzone preferita? Sì, Perfect. Perfetto, è proprio perfetta, no, come canzone, secondo me. Mi ha sbilanciato, non me la... Io pensavo più anni 80, non so, gli A e Te con Me, ecco. Ecco, no? Mi ha sbilanciato. Adoro tutte quelle canzoni, sì? Però in questo momento. Perché perfetto? Perché mi piace. Ti ci vedi? Sì, mi ci vedo. È perfetto. DJ Carona, io che sono ignorante, non so qual è. Possiamo fargliela proprio un accenno, fargliela cantare? Si può? O non si può? Io la so in pugliese. La sai in pugliese te? Perfetto. Sì, devo dire fisicamente, oltre mentalmente, perfetta, non ne manca nulla. Consuelo? Sì. Certo. Noi la vediamo. Ma anche gli amici a casa, sì, se con la webcam riescono. Saluta gli amici a casa. No, ma neanche i baci? Ah, proprio... devo dire che è una delle più eleganti del locale, senza ombra di dubbio. Facciamo una marchettina, una delle più eleganti, dai. È vero? Sì, anche sì, oggi anche tutta è fiorita oggi. Sì. Sì, fammi floreale, la primavera. Prima avevamo la Michela che vende i fiori, adesso abbiamo il prodotto, abbiamo lei che è fiorita. Quindi mi sembra perfetto, no, come sequenza. Sì, visto che la mia rosa a casa è sola. Esatto, cioè, adesso prendi una Consuelo da tenere a casa, ecco, sul comodino. Per una vita migliore, fate come me, prendete una Consuelo. Prendete una Consuelo e il sorriso. Il sorriso vi tornerà. Esatto, fantastico. Tanto sono in vendita i campioni mini di Consuelo, adesso che fai? Mal di gola? Taglia. Sì, sembra che... No, sembra... Allora, poi mi piace perché le donne sono tutte a dieta, però lei, siccome ha lasciato lì il piatto, ha paura. Fretta. Ho paura che grattugia. No, devo andare al dolce, mi piace il dolce. Ah, che dolce? Sì. Che tipo di dolce? La Sacher, quella tutta al cioccolato. Sì, la mangio tutte le mattine io, proprio. Davvero? Sì, ma qui avete delle persone fantastiche, anche un pasticcere bravissimo. È mio amico? È suo cugino, ecco. Sì, mio cugino. No, non è vero. Beh, allora facciamo, io un'idea, finita l'intervista, la terza magari le faremo un'altra occasione. La spalmiamo di Sacher? Di più, io la porterei direttamente dal cuoco. Quella. Io la porterei direttamente dal cuoco. Eh sì. Perché così... Ci congratuliamo in diretta proprio. Sì, portiamo il microfono, giusto, direttamente col microfono. Esatto, proprio. Le fai i complimenti al volo? Dal live. Certo. Che Sandrino può. C'è una ragazza che ha una maglietta come la Consuelo, sta lanciando una moda. Ma poi ci sono queste passanti. Passant così. Facciamo dei saluti. Ciao. Allora, Consuelo, dimmi. Facciamo così, perché adesso giustamente anche io ho fame. Sì. Cosa vuoi, auguri a te stesso e a quelli che sono qua questa sera? Allora, auguro a tutti una bellissima serata, di divertirsi. E qui sicuramente ci si diverte tantissimo. Mm-hmm. Tutte le domeniche e tutte le sere quando è aperto questo bellissimo locale. Sì, da che ora? Non mi ricordo. Dalle 7 a 19, mezzanotte. Dalle 19 alle Alle 24. Giusto? Bravissima. Sandrino, io direi, sì, io direi. Un attimo, prima. No, che devi dire? Abbiamo i disturbatori. I disturbatori. È sempre Alessandro il ballerino che stasera. Alessandro cerca di essere noto. Cerca notorietà. Oltre che alle forze dell'ordine, è vero? Senti, Consuelo, sì, noi ti ringraziamo. Sì, però. Grazie a voi. Sono un po' timida, Non me l'aspettavo. Bravissima, bravissima. Poi con questa voce sensuale impostata. Fantastica. Per me sì. Eh sì, però innanzitutto dobbiamo salutare un'altra parte di te che fa parte giustamente di un divano del convento. Ecco. Sì, intendi la mia amica Anna? Sì, Anna? La voglio salutare perché vengo sempre con lei, è la mia amica del cuore. Che è quella? Che parcheggia male. Sì, quella che sempre che parcheggia male. Sì. Ah, e lei è colpa sua allora? E lei con la Mini Cooper. Non c'è una domenica. E quindi ci auguriamo una bella serata, insomma. Sì, una bellissima serata con serenità. Come sempre. Ballo. Quando c'è musica ballo da capogiro, tra l'altro. Esatto. Diciamo che la musica non porta odio. No, assolutamente. Assolutamente no. È vero, la musica unisce. Dille le tue frasi che mi dici, macchina Carlone, che mi piacciono tanto. Secondo me la religione e la politica separano le persone, la musica li unisce. Meglio di è così. È vero. Hai ragione. Una perfect. Musica per tutti. Io perfect. Voto Carlone. Per un mondo migliore. Io posso cambiare il mondo con la musica. E se lui può cambiare, tutti voi potete cambiare. Consuelo, da Rocky Rocky. Ciao da Consuelo. Grazie mille a tutti e buona serata. Ciao. A più tardi. Ciao da Rocky Rocky.